Mario era un conoscente, abbiamo amicizie in comune che gli hanno permesso di entrare in contatto con la realtà bolognese di vari collettivi, tra cui quello di Labà, principalmente delle sue attività di La Bimbi in particolar modo e del dormitorio autogestito. Quello che ci lascia, oltre alla tragedia in sé ovviamente, quello che ci lascia senza parole è che troviamo assurdo, è che non sia stata data sufficiente visibilità a quanto accaduto alla vicenda. Da parte dei media italiani. Le notizie che abbiamo infatti vengono per lo più dai media partenopei e come se la questione fosse una questione interna a una città, Napoli, oltre che appunto alla Colombia in sé. Però quello che è successo riguarda appunto tutti noi, tutto il paese. Infatti è morto un cooperante italiano in Colombia ed è stata aperta un'indagine per omicidio. Non si sono viste notizie sui TG. Se non qualche servizio appunto un po' accantonato. Sulle prime pagine dei giornali c'è stato qualche stralcio posto appunto sempre alla fine e perciò crediamo sia necessario alzare il livello dell'attenzione su quanto accaduto. Certo, ecco, alcuni amici di Mario hanno parlato di un possibile caso Regeni 2, nel senso che le circostanze appunto in cui è morto sono molto oscure. Assolutamente, e proprio per questo vogliamo rilanciare la petizione, raccogliere la petizione data dagli amici e dai familiari. Tra l'altro è stata aperta una pagina Facebook che si chiama Giustizia per Mario Paciolla, che raccoglie un po' tutte le informazioni che vengono fornite e che seguirà appunto, che segue, seguirà tutta la vicenda cercando di dare la massima visibilità e creare una forte rete. Perché comunque, senza entrare nei particolari, però giustamente per Giulio Regeni c'è stata una visibilità necessaria perché appunto come per Mario è morto un italiano all'estero che faceva ricerca, nel caso di Regeni, nel caso di Mario cooperazione, ma assolutamente sono simili le vicende. Ecco, la petizione che trovate sulla piattaforma change.org è rivolta al ministro degli esteri Luigi Di Maio, quindi insomma deve essere il governo italiano in primo luogo a occuparsi di questa vicenda. Sì, esatto, esattamente. Ovviamente poi speriamo che ogni realtà, ogni città possa svegliarsi anche nella. Se io sto parlando in quanto cittadina, Mario era un conoscente, ma credo sia doveroso per ognuno di noi fare il possibile per rendere la vicenda, per far emergere la verità, insomma. Ecco, so che sei in contatto con gli amici di Mario, com'è l'umore, immagino ovviamente molto, molto triste, molto negativo, però insomma stanno seguendo attivamente questa vicenda. Sì, assolutamente. Mario, appunto, come dicevo, era un conoscente, non era un amico, ma perciò sono entrata in contatto con questi ragazzi in questi giorni, appunto, per chiedere anche il permesso e il rispetto di portare avanti sul territorio bolognese, ma appunto non solo, la loro stessa, direi, battaglia.